baciato la Marisa, una bocca deliziosa, ho provato qualche cosa che spiegar non so. L'ho baciata di sorpresa sul portone vicino a casa e rimase un po' confusa, rosa diventò. Marisa, Marisa, non so più che fare, non so più che dire, e la testa gira da impazzir. Ho baciato la Marisa sulla bocca deliziosa, ma vi dico un'altra cosa, la ribacerò. Marisa, Marisa, non so più che fare, non so più che dire, e la testa gira da impazzir. Ho baciato la Marisa sulla bocca deliziosa, ma vi dico un'altra cosa, la ribacerò. Marisa, Marisa.